ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questo sabato mi fa piacere iniziare da un articolo pubblicato da The Conversation, che è una rivista australiana, che si intitola Quanta ricerca dietro un Nobel. Lo trovate sul numero di Internazionale in edicola da ieri, che tra l'altro ha in copertina e poi all'interno un interessantissimo approfondimento sullo stato attuale e sul futuro, soprattutto a breve e medio termine, delle compagnie aeree. Ma al di là di questa inchiesta del Guardian, appunto vi segnalo questo articolo di Conversation perché è dedicato alle due vincitrici del premio Nobel per la chimica, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Sapete che hanno vinto e c'è stata anche abbastanza giusta polemica per alcuni titoli apparsi sui giornali, uno su tutti, le Thelma e Louise del DNA. Cosa c'entrino Thelma e Louise con queste due signore? In poche l'abbiamo capito. In realtà, e questo articolo è per questo che ci tengo tanto a segnalarvelo, spiega che questa tecnica per la quale hanno vinto il premio Nobel di editing genetico, cioè chiamiamolo taglia e incolla per capirci, però appunto sapete che il DNA del quale sono fatti i nostri cromosomi, fatto da questa doppia elica, noi a volte vediamo delle immagini ingrandite, ma è infinitesimamente piccolo, quindi tagliare e incollare materiale di questo genere è appunto una scoperta straordinaria, spiega questo articolo, frutto del lavoro di molti ricercatori nel corso di più di 30 anni, culminato con il premio a queste due scienziate. A proposito di copertine, vi segnalo quella dell'Economist che per una volta non è più dedicata al coronavirus, anche perché è andato in stampa, diciamo, prima che la situazione poi si aggravasse molto nel Regno Unito e siamo tutti naturalmente appesi ai dati giornalieri e all'interpretazione che ne fanno da una parte la comunità scientifica e dall'altra i decisori politici, però sappiamo insomma è tutto in evoluzione in tutto il mondo e quindi l'Economist per questa settimana ha deciso di dedicare la copertina agli uiguri, quella minoranza perseguitata in Cina, ed è anche un po' lo spunto per parlare di tutte le minoranze che per ragioni religiose o di altro tipo sono perseguitate lontano dai riflettori senza che la comunità internazionale intervenga e purtroppo a volte se non ci sono degli interessi particolari, in questo caso gli uiguri evidentemente non custodiscono alcunché di interessante per gli occidentali. Ricorderete che un po' lo stesso era successo in Ruanda, l'Occidente chiuse gli occhi di fronte al genocidio del 1994 e sostanzialmente perché evidentemente non era importante quel paese per la comunità internazionale. Naturalmente non ha senso valutare gli interventi umanitari in questi termini, ma tant'è. E l'Economist appunto si concentra su questo. Il Washington Post invece, che continua diciamo che ha intensificato la sua attività di giornalismo investigativo, lo ha fatto anche il New York Times in questo periodo, l'argomento principale è sempre Donald Trump, perché un po' perché entrambi i quotidiani, Washington Post è di proprietà di Jeff Bezos e il New York Times è un quotidiano tradizionalmente liberal nel senso americano del termine, quindi non conservatore, quindi entrambi naturalmente hanno come loro diciamo obiettivo naturale la presidenza così conservatrice e molte posizioni di Donald Trump, ma sta di fatto che appunto questo ha portato a importanti inchieste. Il Washington Post per esempio spiega che negli Stati Uniti in questo momento si è aperta una vera e propria guerra a TrickBot. Che cos'è TrickBot? La più grande rete mondiale di computer zombie, cioè controllati dall'esterno all'insaputa dei possessori. Perché questo parlare di trickbot? Perché naturalmente il timore è che questa rete di computer zombie possa essere usata per influenzare le elezioni presidenziali. Nelle scorse settimane l'esercito americano ha lanciato un'operazione per limitare le attività della rete gestite da hacker russi, e anche Microsoft si sta muovendo dopo aver ottenuto un'ingiunzione da un tribunale che le permette di agire contro i server che sono riconducibili a questa rete. Naturalmente tantissime ancora le notizie sul coronavirus. Vi segnalo per esempio una delle tante ricerche uscite in questi giorni, in questi mesi. Ne ha parlato il Telegraph, un quotidiano britannico, e secondo questa ricerca del centro, frutto che documenta la simulazione fatta da un centro di ricerca giapponese, il Riken, e della Kobe University attraverso un supercomputer, il tasso di umidità di una stanza influisce sulla diffusione del coronavirus, con quelle più secche che andrebbero evitate perché favoriscono il trasporto del virus attraverso l'aerosol. I ricercatori, secondo quanto ha scritto il Telegraph, hanno simulato, grazie a questo supercalcolatore, l'emissione e il flusso del virus da parte di persone infette in ambienti chiusi, indoor, in diverse condizioni, e dallo studio è emerso che un tasso di umidità di meno del 30% fa sì che nella stanza ci sia il doppio di particelle del virus aerosolizzate rispetto ad una in cui invece il tasso è maggiore del 60%. Una notizia anche comunque importante, spesso lo ripeto, ma perché è come se volessi ricordarlo a me stessa, sono tempi in cui un po' travolti dalle notizie sulla pandemia, ci dimentichiamo, o comunque magari non andiamo a cercare quello che sta succedendo in tanti altri ambiti. E mi capita spesso in questi giorni di ascoltare Al Jazeera, naturalmente non in arabo ma nella sua versione inglese, e Al Jazeera ha parlato di questa decisione di Cipro che cancellerà a partire da novembre il cosiddetto regime dei passaporti d'oro, in base al quale la cittadinanza cipriota viene concessa agli stranieri che fanno consistenti investimenti sull'isola. La decisione è stata maturata a seguito della scoperta di numerosi abusi, perché insomma non era difficile immaginare che se era solo una questione di soldi ottenere il passaporto, era probabilmente anche si esponeva questa modalità agli abusi. E infatti con questa inchiesta poi è seguito l'annuncio che ha fatto dal portavoce del governo di Cipro, Kyriakos Kousios. Sempre Al Jazeera, è la mia passione del momento, ma lo dico perché ho insomma la fortuna, suppongo, o comunque rinuncio ad altre cose per avere quello di un abbonamento satellitare che mi permette di vedere tutti questi canali. Ed è veramente interessante perché, ripeto, la pandemia ci riguarda tutti, ha conseguenze sanitarie, nel senso che magari tutti noi ormai conosciamo o l'abbiamo vissuta direttamente o conosciamo qualcuno che ne ha sofferto, e poi ci sono tutte le conseguenze economiche e sociali, però nel mondo tante altre cose succedono, e a volte servono appunto questi canali che hanno magari anche la loro sede proprio in un altro, in un paese molto lontano da noi, per capire appunto quante cose succedono. E quindi sempre da Al Jazeera ho appreso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta istituendo una commissione indipendente per indagare sulle denunce di sfruttamento e abuso sessuale da parte degli operatori umanitari durante l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Credo che sia un crimine nel crimine. Già la violenza sessuale è credo uno dei crimini più odiosi che si possano immaginare, e se poi i colpevoli sono gli operatori umanitari, assume veramente un contorno che non è neanche difficile, non è neanche facile descrivere a parole. Comunque, intanto appunto partirà questa commissione d'inchiesta. Invece torniamo decisamente a problemi che ci riguardano tutti e che sono molto europei e americani. Ne ha parlato Financial Times perché l'Unione Europea sta stilando una lista di una ventina di grandi società quotate di internet che probabilmente includeranno giganti come Facebook e Apple e che saranno soggetti a regole più stringenti. Il tentativo naturalmente è quello di frenare il loro potere sul mercato. Avete sentito qui a Radio 24, avrete letto sicuramente di questo report di Mediobanca che ci ha fatto capire come benché il tax rate, cioè comunque l'aliquota che alcune società con utili e ricavi altissimi a livello globale pagano qui in Europa, magari in Italia, non è poi bassissimo. Il fatto è che riescono tramite tutto legale, tramite quella che viene definita l'elusione fiscale, appunto a essere soggetti alla tassazione più favorevole e quindi a postare diversamente i loro ricavi nei bilanci e gli utili naturalmente. Questo tema è anche legato alla capacità di lobby che hanno tutte queste società e il tema appunto adesso, dice Financial Times, sarà affrontato anche a Bruxelles. Abbiamo ancora poco tempo, però vi volevo segnalare una storia divertentissima che ho trovato anche questa su Internazionale, tradotta dalla rivista Rest of the World americana, e che racconta la storia di Sertac Tajdelen. Chi è? È un signore turco. In Turchia, chi c'è stato probabilmente lo sa, leggere i fondi di caffè per prevedere il futuro è una tradizione molto antica ma ancora molto presente, e questo imprenditore ha creato un'app per farlo con il telefono e attenzione, già 20 milioni di persone l'hanno scaricata. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.